abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Maggio che ci lascia sfilare, è buona per Alessandro, occhio ad Alessandro, il tocco morbido in mezzo, Higuain, Higuain! Il pipita! 1-0 Juve, freddissimo, Higuain! Merito di tutti quelli che mi hanno accompagnato, mi hanno dato quella grinta, mai mi hanno lasciato disturbare delle critiche, per tutti quelli ovviamente, per me che sono il che gioco e per compagni che la verità oggi dopo il gol, vederli felici a loro era una cosa immensa per me, per tifosi, oggi ho vissuto uno dei momenti più belli della mia carriera. Dybala e poi 2-0 di Mandžukić, di ginocchio, il tap-in di Mandžukić. Direi che stasera la Juventus ha fatto una partita intelligente, con pazienza, abbiamo rischiato un po' di volte su qualche ripartenza. Loro stasera, cambiando l'allenatore, hanno fatto una bella partita difensiva, la corsa ha chiuso tutti gli spazi, bisognava un pochino muoversi un po' meglio davanti, avere un po' più di velocità nella palla tra le linee, ma non era assolutamente semplice. È normale che poi dopo alla fine, calando un po' loro, abbiamo trovato più spazi e la squadra è riuscita a vincere la partita. Questa voce mi sembra di conoscere, non quella di Wayne e di Allegri, ma quella del signore che ha raccontato del signor Pardo, che ha intervistato Pardo, poi lo sentiamo. Ma ragazzi, manteniamo la calma su sta roba, voglio dire, è un'omonimia, c'è un entusiasmo sul web esagerato, io grazie. Allora, la notizia della giornata è stata che 6 anni dopo, era il 27-28 settembre della stagione 11-12, abbiamo una triplete delle squadre italiane in Champions. Allora fu Milan Vittoria Pilsen 2-0, Napoli Villarreal 2-0, Zesca Inter 2-3. E oggi ci ripetiamo, chiaramente gli avversari non sono Real Madrid, Barcellona e Manchester United, ma comunque una tripletta in Europa non è male, pamalla dopo la grande depressione del giro e scorso. E dal 2010 non eravamo terzi nel ranking, abbiamo superato la Germania. Queste le buone notizie di giornata. Le altre stanno arrivando e qui è proprio cronaca, perché il Bayern Monaco ieri ha preso tre sempre schiaffoni. Sempre Italia e Germania in qualche modo, perché Ancelotti. E Francia, perché Ancelotti ha preso tre schiaffoni dal Paris Saint Germain e in corso, dicono le ultime, vertice tra i dirigenti in discussione il futuro di Ancelotti. Partirei da questa botta di cronaca con Maurizio Crosetti, il cross da Repubblica. Ciao. Eccoci, buongiorno ragazzi. Beh, mi sembra un po' esagerato discutere un allenatore come Ancelotti in una squadra, in una città come il Bayern, il 28 di settembre, dopodiché il calcio ha regole universali e senza geografie particolari, però mi sembrerebbe un po' esagerato, non so cosa ne pensate voi. Zamparinismo allo stato puro, però lì c'è un Robin che dice state con Ancelotti, e... meglio lascia stare, sai, può esserci dell'altro. Io devo essere onesto, con tutto l'affetto per Ancelotti che rimane, e se io fossi un dirigente del Bayern non lo esonererei, perché è un grande allenatore, perché secondo me è solo questione di tempo. Sicuramente è un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, su questo non ci sono grandi dubbi. Dal precampionato in poi è un'onda lunga non brillante, però ripeto, io non lo esonererei, che non è facile dire. Non lo esonererei. Mi si intorcina la lingua. Invece andiamo su, allora, Crosetti oggi giustamente ha scritto, quella di Guain era scritta nel libro Cuore, no? Beh, panchina, sì, quando ha cominciato a scaldarsi cercando di far aderire quella pettorina ai suoi nobili lombi, ci siamo guardati tutti e abbiamo detto eccolo, perfetto, arriva al pezzo, arriva, entra, fa gol e alè. E infatti poi è così, perché ci sono storie che quando le annusi già sono successe, anche se poi anche qui tutto esagerato, non era in crisi prima, non è tornato automaticamente in forma adesso, esatto. È un grande campione che ha bisogno di certi tempi, un po' il Pardo, diciamo, dell'area di rigore, no? Non è proprio una piuma, però come il nostro amico Pierluigi, torna in forma quando è necessario, non prima. È così? Stiamo parlando di uno dei migliori attaccanti della storia, direi che il paragone ci può stare, anzi grazie. Sì, infatti, è tutto esagerato. Il gol è una fattispecie particolarmente liquida nello sport, liquido che è il calcio, ancora più liquida del resto, nel senso che le condizioni di forma dei centrocampisti possono anche avere una loro logica, no? Ci sono delle fasi, momenti in cui stai meglio, momenti in cui stai peggio, poi sì, ci può essere la giocata, però ci sono giocatori di maggiore sostanza. A Higuain essenzialmente, anche se è un grande giocatore dal punto di vista tecnico, viene richiesto il gol, e il gol è per sua stessa natura questione veramente di attimi, di frazioni di secondo, di istinto, di testa, e quindi fuggente. È ancora più delicata come materia, no? da gestire, e secondo me, quindi insomma, era ovvio che sarebbe, ma l'ho detto ieri proprio a questi microfoni, come dicono quelli bravi, che Higuain sarebbe tornato e che ero sicuro e sono sicuro che farà più di 20 gol in stagione. Cross, il liquido è diventato solido invece per Dybala, pallone di Ghisa in Champions League, lo scrive anche questo oggi. Sembra essersi esaurito in quella notte col Barcellona. Ma ieri il 2-0 l'ha fatto lui. Su 2-0 l'ha fatto lui. Sono sei partite senza gol, e comunque anche per Dybala credo che la prospettiva sarà quella di un campione grande, forte tra i giocatori della Juventus, non c'è dubbio, togliendo Buffon che non è un giocatore ma è una leggenda, no? E poi fa il portiere, quindi è un'altra cosa. Però diciamo che tra tutti gli altri, in mezzo a tutti gli altri, tra Dybala e i compagni non c'è proprio paragone, quindi è il più forte, ma per essere in piena grandezza e degno di tutto questo, nonostante la giovane età, dovrà risolvere, come contro il Barcellona l'anno scorso, altre partite di Champions e magari una finale, insomma, come fanno i grandissimi sono Zidane, che, no, che fa due gol al Brasile in finale, oppure in Champions al volo in finale di Champions, insomma. I grandissimi risolvono. Per adesso lui sta studiando da grandissimo, quindi sei partite in Europa senza gol sono tante per uno che ogni volta che tocca la palla mette dentro, capite? Sì, allora sentiamo Higuain, sentiamo Allegri su Higuain. Io dico sempre nella vita, aiutati che Dio ti aiuta, perché dopo gli altri possono sostenere, ma se Gonzalo, per lui quest'anno è un'annata importante, l'anno scorso è arrivato alla Juventus e insieme ai giocatori e agli altri compagni ha vinto, e quest'anno si deve confermare, e quello che è successo l'anno scorso ormai fa parte della storia, quello che è successo negli ultimi 6 anni fa parte della storia della Juventus. Quest'anno è un'altra stagione, tutti aspettano di battere la Juventus e ognuno di noi si deve mettere in discussione ogni giorno, e quindi chi lo fa va avanti, chi non lo fa rimane indietro. Allora, questo Allegri su Higuain, ma sì, un po' di panchina fa bene a tutti. La Juventus ieri sera non brillantissima, l'Olympiacos mi è sembrato abbastanza un disastro, come conferma anche la classifica del campionato greco, sì, se però, non erro. No, vabbè, sì, no. Sì, no, ma allarghiamo. No, allora, facciamo guarda, così. Per me sono tre vittorie. È chiaro che il Napoli ha dei lampi anche estetici che sono superiori rispetto alle altre due, no? Quindi è chiaro che a parità di vittorie il Napoli ti fa innamorare sempre un filo di più delle altre due. Però secondo me sono tre vittorie abbastanza simili, nel senso che il Napoli sicuramente ci ha messo un po' di brillantezza in più, però anche il Napoli ha dei motivi che hanno fatto incazzare, citazione testuale, Sarri, no? Per quel gol preso. Cioè sono tre buone partite con all'interno una serie di cose che ancora non vanno. La Juve ieri non è stata brillante, però meritava di vincere. La Roma poteva fare 6 gol e ha rischiato di pareggiare ed è abbastanza incredibile, e il Napoli ha strameritato. Però ha provato a rimettere in partita sul 2-0 gli avversari con rigore poi parato da Reina e ha preso quel gol alla fine. Quindi tutte e tre devono essere felici, ma c'è ancora da lavorare. No, poi Maurizio, la congiuntura astrale, mi pare si dica così, è stata favorevole, perché Conte è andato a vincere sul campo dell'Atletico Madrid e quindi si disegnano delle geografie diverse in questo girone, forse. I pianeti sono tornati a girare sul loro asse naturale. Meno male, perché comunque sono 2 gironi su 3, non facilissimo. Uno molto complicato Roma, l'altro insidioso Napoli, l'altro certamente più facile Juventus. Però insomma, dopo 1 punto su 9 preso al debutto al primo giro di giostra, bisognava prenderne 9, e adesso indubbiamente tutto torna secondo previsioni e auspici. Tra l'altro, come diceva Pierluigi, il ranking non è una brutta parola, è un concetto importante in un momento in cui in Europa e nel mondo siamo un po' andati indietro, no? In questi anni, a parte le finali della Juve, peraltro perdute, siamo usciti 2 volte al primo turno dei mondiali, non c'entra col ranking UEFA, quello è FIFA, però è tutto, come dire, una riconquista di posizioni un po' perdute, quindi rimettere il cappello sulla sedia non è male. Della Champions e dell'Europa, non è male, anche perché l'anno prossimo avremo quattro squadre. Avremo quattro squadre come Dio comanda, insomma, come dovrebbe essere. La Roma deve non perdere a Madrid. Io credo che il risultato di ieri non sia il massimo, perché tu dici, ma sì, per il risultato del Chelsea. Deve non, alla fine, insomma, la Roma, secondo me, si gioca tutto nella quinta partita, quella giocherà con l'Atletico Madrid. A meno che poi ti dico. Poi ci sta pure che fai risultato col Chelsea, perché dobbiamo smetterla, secondo me, di pensare sempre solo negativo. Anche qui abbiamo dei disequilibri esagerati, per cui Real Juve sembrava che la Juve fosse favorita prima della finale, e evidentemente non era così. Però, insomma, secondo me ormai le italiane sono a un livello di competitività buono, sono sotto alle grandissime, ma insomma, possono provare a giocarsela. Sì, guarda la liquidità del calcio, Maurizio, per chiudere, come direbbe Pardo. Appunto, due settimane fa eravamo in lacrime a strapparci le vesti, e il calcio italiano fa schifo, e non abbiamo le solite cose, no, che si dicono in quei casi lì. Settori giovanili, e troppi stranieri, Adesso fuori le bandiere sul balcone, Germania superata e ciao a tutti. Ma sì, è così. Coerenza anche questa sconosciuta. Però è anche bello andare in giostra, se no i bambini non si divertirebbero mica, no? Se non gli piacesse fare il giro della giostra, provare ad andare a acchiappare la coda del cavallino, quel che era, della volpe lì, che era quella che andava su e giù, non prendevi mai. Cioè, se non fosse così sarebbe anche una bella noia. Ma anche le incoerenze qualche volta delle nostre analisi critiche, o la volubilità, la liquidità delle nostre, in mancanza di altre liquidità, insomma, no? Prendendoci questi alti e bassi, io dico che non bisogna, anche in questo caso, prenderci troppo sul serio nemmeno nelle nostre certezze. Il calcio, come tutto lo sport, è fatto di giorni che seguono altri giorni e li smentiscono. Ogni istante, ogni gesto può essere meglio o peggio del precedente. Non ci annoiamo, ci piace anche questo, siamo incoerenti qualche volta, sì, però è anche la realtà che ce lo impone, è la realtà, no? Che ci smentisce, ragazzi. Grazie Maurizio. Mamma mia, che roba. Oh. Mamma mia. Che livelli alti. Madonna, mia, ragazzi. Proprio. Chiudiamola qua, perché di più non si potrebbe. Si vede che stai avendo delle letture che ti stanno arricchendo, e non diciamo altro. È dei classici, dei nuovi classici. Te ne parlerò, caro. Vabbè. Ciao Maurizio. Solo stretto necessario, però. Vabbè, ciao Maurizio Crosetti. Ciao. Questa pubblicità occulta. Che meraviglia. 800-24. Sì. Aspetta, chiamiamo gli ascoltatori. Chiamali tu, dai, su. Sì. 800. Sì, pensavo già i nomi. No, 800, Gino da Brescia. No. 800-24-0024. Parola oppure di 349-238-6666. Naturalmente. Sì. Traffico. Poi facciamo un salto sulla Roma. Che dici? Yes. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Tutti convocati. Sempre importante vincere dopo tanti anni che non si vinceva, e devo dire che nonostante abbiamo sofferto un po' nel finale, la squadra poteva chiuderla prima, siamo stati un pochino ingenui dopo il 2-0 a essere un po' leggerini in certe situazioni di gioco, però per il resto ritengo che sia una vittoria importante. Più importante vincere che forse giocare bene, ma penso che dovevamo chiudere la partita in primo tempo, poi loro hanno fatto questo gol e poi era tutto più difficile, ma alla fine abbiamo pure sofferto un po', ma tutti insieme come deve essere, alla fine abbiamo preso 3 punti. Voci da Baku, dunque, abbiamo sentito Di Francesco e Dzeko, partita che insomma si è praticamente chiusa in un pugno di minuti, e poi la Roma ha trovato il modo di complicarsela. Diamo il benvenuto fra l'altro al nipote di Cruciani, la della notizia è che Cruciani abbia un nipote, che è un nipote, anche un bel ragazzo a differenza di Cruciani, non ho ancora visto. Un uomo elegante, incredibile. Quindi, ma secondo te, capelli corti, lavati, cioè una cosa veramente? Dov'è? Veramente vegetariano, mi dicono, vegetariano, lo salutiamo, cioè. Ma secondo te ieri sera, nel tardo pomeriggio, il signor Roncone sul suo divano, come se l'è passata? Glielo chiediamo. O era il Corriere della Sera sul pezzo, non so. Dove eri, Fabrizio? No, ero ero sul divano, mi sono gustato la partita. Insomma, cioè, come ha ragione, ragazzi, ha ragione Di Francesco. L'importante era vincerla, perché la Roma non è che può, insomma, c'ha un pedigree europeo negli ultimi anni, per noi 2527 giorni che non, la Roma non vinceva in trasferta in Champions League. Sì, e poi comunque la Champions per la Roma è sempre stata abbastanza devastante negli ultimi anni. Ricordatevi Manchester, ricordatevi il Bayern in casa, insomma, andare a vincere lì è stato importante. Io poi penso anche che lì non sarà una passeggiata né per il Chelsea né per l'Atletico. Cioè, insomma, è una squadra modesta, però in quello stadio, con quel pubblico, evento nazionale, poi se piove, campo pesante, insomma, poi è vero che la Roma sarà complicata, però lì non è una passeggiata per nessuno. Io penso che siano tre punti buoni. Naturalmente si aprono, secondo me, ieri sera in realtà due casi dentro la Roma, due casi autentici, nel senso che uno è il mistero con Alonso. Con Alonso ha fatto una partita ieri venire imbarazzante è poco, al di là del fatto che ha mandato in gol l'avversario, ma insomma non ha azzeccato un passaggio anche più elementare, cioè, evidentemente c'è malissimo. Un problema anche di inserimento di questo, che cioè, io non dico che questo sia il miglior giocatore d'Europa, però insomma era il capitano del Leone, giocatore d'esperienza, non le ha azzeccate nessuna. A Roma si era pure sparsa la voce un paio di settimane fa che lui potesse tornare al Leone. In realtà poi lui l'ha smentita, però è chiaro che insomma è improponibile in queste condizioni. Aggiungo che in questa città straordinaria per molte cose è una città che dovrebbe anche chiedere scusa a De Rossi, perché io ho sentito un sacco di gente dire per settimane che Gon Alonso avrebbe rubato il posto a De Rossi, che Gon Alonso era meglio di De Rossi, che con l'arrivo di Gon Alonso De Rossi si sarebbe seduto in panchina. Insomma, questa è una città a volte davvero poco generosa, che ha poca memoria e secondo me che in alcuni casi capisce anche poco di calcio. Io mi terrei stretto De Rossi e finché gioca come dicono gli americani, Fabrizio, never underestimate the pride of a champion. Sottovalutare l'orgoglio di un campione. Aggiungerei un mego. Never underestimate the pride of champion. Ma sì, never underestimate the pride of America champion. Me senti? America mi sì, ha provocato. No, il secondo caso invece? Il secondo caso è Pellegrini. Cioè, io penso che Pellegrini, per come sta giocando, per la forza che mette in campo, per la capacità di corsa e per come tocca il pallone, non possa essere considerato uno che torna a centrocampo. Io penso che Pellegrini debba avere un posto stabile in questa squadra. È un problema dell'allenatore. Ma infatti ci siamo, siamo a quel mi pare che lentamente lui se la stia prendendo da solo alla maglia, però insomma è chiaro che non può essere considerato uno che entra, e questo è uno che ormai ha dimostrato in queste partite, in questi squarci, di avere tanta corsa, tanta testa, tanta facilità di tocco. E aggiungo che se servisse un cambio a De Rossi, che per età non può giocarle tutte, forse al posto di De Rossi, sia pure con caratteristiche diverse, si può provare Pellegrini, si potrebbe provare Pellegrini, tanto per assicurargli comunque una maglia a centrocampo. La Roma è profonda, lo dice tutti i giorni Pardo, la Roma è profonda. La Roma ha una rosa, in difesa un po' meno, in difesa secondo me c'è qualche certezza in meno e il vero punto interrogativo è quello, ma a centrocampo e in attacco la Roma ha una rosa veramente di grande profondità, al punto che Gon Alonso in questo momento è stato respinto quasi come un corpo estraneo, insomma non è un giocatore che ha fatto la storia del calcio francese, diciamo la verità, però è un giocatore che comunque come esperienza e come mestiere, se si inserisse nelle condizioni giuste, con magari una concorrenza un pochino meno feroce come quella che ha in questo momento, potrebbe fare bene. Il fatto che faccia male in qualche modo è la dimostrazione del fatto che sta trovando poco spazio. E davanti c'è una rosa, ci sono sei giocatori, mettendoci dentro anche Under, di grande livello, secondo me veramente. Poi c'è Schick, Pier. Appunto, c'è Schick, c'è De Frel, c'è Perotti, c'è Sheraui, c'è Dzeko, c'è Under. Ora, non so quante squadre abbiano sei giocatori di questo livello lì davanti. Forse la Juve ha la stessa profondità, anzi sicuramente ha la stessa profondità offensiva. Il Napoli secondo me ha qualcosa in meno, poi ha nei titolari qualcosa in più, anzi parecchio in più, nel senso che quei tre sono meravigliosi, ma dopo l'infortunio di Milik, se guardiamo la quantità di giocatori, insomma, secondo me la Roma è molto competitiva. È chiaro che è in piccolo quello che vale per Montella, cioè qui c'è l'allenatore nuovo, lì non c'è, però è una squadra con delle novità rispetto ad altre squadre come il Napoli e la stessa Juve alla fine più collaudate come fisionomia, quindi qualcosa ancora non funziona. A me ieri, io l'ho vista, non m'è dispiaciuta, poi certo al 90esimo c'è stata una palla gol per il Karabakh, andava chiusa prima, bisognava segnare di più, però non m'è dispiaciuta, mi è piaciuto l'approccio alla partita, la squadra vera, insomma aggiungici anche che c'è questa sperimentazione continua di questo mettere e togliere 5-6 giocatori ogni partita che sta facendo Di Francesco, che all'inizio, lo dico proprio con totale sincerità come bisogna fare quando si parla di calcio, mi ha destato molte perplessità, perché secondo me pensavo si dovesse puntare su un nucleo forte di giocatori. In realtà mi pare che invece stia pagando questa rotazione continua di 5-6 elementi, forse anche per quello che dicevi tu, Pier, cioè che comunque è una rosa competitiva, quindi quando togli e metti più o meno sei allo stesso livello. E ce n'hai ancora due fuori, che sono Schick e questo cazzo, questo olandese che insomma è a Roma aspettiamo da luglio, ma insomma comunque io francamente l'ho visto soltanto su YouTube. Però devo dire che insomma dicono che sia forse il miglior laterale destro d'Olanda, l'anno scorso il miglior laterale destro d'Olanda, quindi questa idea di Francesco di ruotarne 4-5 non è male. Sta pagando, e se dovesse pagare a lunga rischia di essere rischia di portare grandi risultati in termini anche di di risparmio energetico, voglio dire. Anche perché lo spogliatoio si sente tutto coinvolto. Chiaro, questo è importante, è decisivo. Quello che devo dire, Allegri sta facendo da molto tempo alla Juve. Ma sai, su un meccanismo collaudato tu puoi farlo, su uno come quello della Roma, che in gran parte nuovo, è un po' più difficile. Fabrizio, ti ringrazio, abbraccio. Grazie a voi, abbracci, ciao Pier. Prima di Alberto da provincia di Reggio Emilia, io vi farei sentire questa perla del qui presente Pierluigi Pardo, che ieri sera, capita raramente, ha intervistato il suo omonimo Pardo dell'Olympiakos. No, io volevo sapere se lui sapeva che il telecronista si chiamava Pardo. Sì, conosco che il commentarista del partito tiene tu mismo appellito, ma è una cosa ridicola, sono d'accordo con te, cugino mio. Mi dissocio, nosotros se dissociamo da questo momento del teatro. Ma non è vero, Felipe è contento, Felipe, guarda che allegria, Felipe. Felice, Felipe è contento. Felipe è contento. No, però Pardo è molto popolare in Colombia, no? Sì, in Colombia, bueno, aquí ya. Con mi toccaglio. Sì. In Italia siamo 20, in tutta Italia, questo è la differenza. Guarda il Celtic. 21 con lui che è italiano. Ti gusta il football italiano? Sì. È l'equipo che ti gusta más? Los equipos grandes, Milan, Juve, Inter. La liga es muy, muy competitiva, es una liga muy buena, donde se lucha, se juega muy bien al fútbol. Suerte, para toda la familia, salutami i cuginetti. Salutiamo, devo dire che sono veramente, adesso al di là di tutto, Sandro, che ha fatto, io mi dissocio da questa cosa qui, cioè tutto l'ufficio stampa dell'Olympiakos, nonostante la sconfitta, sono tutti che ridono. È bello vedere che dopo l'adrenalina della partita, insomma, comunque si riesce a strappare una risata anche una squadra che ha perso. Gag allo stato puro, sì. Melting pot. Ma no, ma erano impazziti questa cosa di Pardo, veramente, mi hanno detto scendi giù, devi intervistare. Il Pardo che intervista a Pardo. Ci sono circa 359 famiglie Pardo in Italia, vedi, siamo pochi, non siamo 20. Alberto, buongiorno. Buongiorno, vorrei lanciare una provocazione così sulla Juventus, ma se mettiamo Sarri al posto di Allegri, secondo me si divertirebbero di più i giocatori, di più i tifosi, e probabilmente vincerebbe anche di più la Juve. Che cosa ne pensate voi? Mo me la segno, aspetti un attimo, sentiamo anche Filippo, provincia di Modena, così poi rispondiamo in maniera cumulativa. Dica. Sì, salve, una cosa velocissima. Premetto, io stimo molto Pardo, ma l'ho sentito definire Dybala un buon giocatore, e oggi l'ho sentito definire gli attaccanti della Roma di grande livello. E forse la rosa della Juve ha la stessa profondità della rosa dell'attacco della Roma. Ho capito male o veramente pensa che Dybala sia solo un buon giocatore? No, no, ha capito male perché viene sempre il termine di paragone. Se il raffronto era con Messi, probabilmente io, ragazzi, che vi devo dire, per me Dybala e Mertens sono i due migliori giocatori del campionato, senza se e senza ma, e non credo che ci siano discussioni su questo. E il discorso sulla profondità della rosa della Roma è in termini quantitativi. Ho detto che probabilmente la Juve ha la stessa profondità, nel senso che la Roma ha sei giocatori, diciamo 5 e mezzo, potenzialmente di grande livello, ed è sul livello della Juve, ed era una sottolineatura del fatto che soltanto Roma e Juve secondo hanno me quella profondità della rosa. Quella lo stesso offensivo. Napoli, che nei titolari è meraviglioso dopo l'infortunio di Milik, però potrebbe essere un pochino più corto, tutto qua. Sì, e quanto allo scambio, quando giocatore. Lo scambio... E poi come sempre viene ai paragoni Dybala Cristiano Ronaldo Dybala Messi. Dybala fa tanta differenza in Italia, secondo me. Ecco, prima tu dicevi il discorso che non trova il gol. Ieri il secondo gol, stavo dicendo, l'ha fatto lui praticamente. Poi il calcio è anche strano in questo, perché poi alla fine Mandžukić ci sarebbe meritato, però il merito di quel gol è in massima parte di Dybala, non ci sono grandi discussioni. Quanto, no? Allo scambio alla pari Allegri Sarri, allora io mi terrei, fossi tifoso della Juventus, mi terrei stretto, buono e caro Massimiliano Allegri, perché poi bisogna anche vincere, e lui qualcosina. Fossi tifoso della Juve mi terrei Allegri, fossi tifoso del Napoli mi terrei Sarri, nel senso che, no, sembra la risposta democristiana, nel senso che io non credo che mettendo Sarri al posto di Allegri il Napoli, la Juve vincerebbe di più immediatamente. A parte di più che cosa? Nel senso che poi alla fine la Juve, diciamo la verità, ha sbagliato una partita. Cioè, la Juve ha sbagliato la partita con Real Madrid, che ha perso. Certo. Una squadra che vince campionato, Coppa Italia, va in finale di Champions e perde la finale di Champions con Real Madrid, sbaglia una partita, o semplicemente è inferiore a una squadra in Europa, e ci sta come ragionamento. Se vuoi, ha sbagliato la partita con la Lazio in Supercoppa all'inizio di questa stagione, ma insomma, se guardiamo la gestione Allegri, la quantità di trofei è enorme, quindi vincerli più francamente mi sembra abbastanza complicato. Bisognerebbe quindi dire che con Sarri, se tu arrivi in finale di Champions League, ammesso che ci arrivi, poi batti il Real, non lo so, mi sembra abbastanza ardito. Però il Napoli indubbiamente è una squadra che grazie a Sarri ha valorizzato dei giocatori che sembravano di quel livello, e lo sono. Certo. Allora ci fermiamo. Sì, vero. De Luca, Giorgio, che puntata Luca, facciamo sabato? Il baccalà facciamo. Bello il baccalà. Gianmarco Peronati in regia, noi ci fermiamo per la borsa e torniamo. Baccalà. Bene, allora siamo tutti convocati. Convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Ed eccoci di nuovo qua, Pierluigi Pardo, anche oggi in studio. 800 24 00 24, numero verde. Abbiamo parlato della Juventus, stiamo abituando, buone abitudini. I like it. Abbiamo parlato delle nostre tre che ieri sera hanno vinto, continueremo a farlo con gli ascoltatori. 800 24 00 24, mi parrebbe giusto però allargare il discorso a tutto quanto, che poi è correlato anche in parte alle nostre, soprattutto alla Roma con la vittoria del Chelsea sul campo dell'Atletico Madrid, e con Carletto Ancelotti che insomma rischia, è notizia di oggi. Ieri ha preso tre sberle dal Paris Saint Germain, che rigori o non rigori, liti o non liti, comincia a diventare qualcosa di serio, forse, che dici? Beh, insomma sì, ragazzi, un conto è l'amicizia, la stima per un allenatore straordinario, e un conto è rendersi conto, scusa il gioco di parole, che le cose non stanno andando nel migliore dei modi. Detto questo, ripeto, io penso che per la storia di Ancelotti e per il fatto che siamo neanche a ottobre, siamo a fine settembre. Io sono già proiettato ad ottobre, non so, siamo all'inizio dell'inizio, sia molto più saggio continuare, a meno che non ci siano delle cose che non sappiamo di quei rapporti distrutti, incrinati. Ma insomma, sì, mi sembra francamente un'ipotesi abbastanza, poi conoscendo Carlo, che è il re nella ricomposizione dei problemi quando ci sono, no? Del proprio, forse la sua qualità migliore, certo, la capacità di gestire, di non provocare particolari problemi, di risolverli, farsi voler bene al gruppo, mi sembrerebbe veramente strano. Ma alla domanda, avvicinato oggi alla domanda, rimarrà allenatore Bano, ha risposto un no comment, che forse si può commentare. E poi c'è Rummenigge, che ieri ha detto questa sconfitta non può rimanere senza conseguenze. C'è Filippo Maria Ricci in linea dalla Spagna. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, no? Stavamo chiacchierando del futuro di Ancelotti. Sì. Che passa, ombre? Che passa, ombre? Te lo vieni? Todo bien, però per Carlo poco bien. Non lo so, la vedo difficile, non lo so. Bisogna vedere. Al Bayern è complessa, tanta gente che parla, tanta gente di peso. Non lo so. Ieri sera, sì. Sono quelle partite che restano. Mi ricordava un po' derby perso al Calderon 4-0 a febbraio, nel giorno del compleanno gennaio o febbraio sì, febbraio. Gli anni sì, sì, quel 4-0 che alla fine pioggia brutto tempo, no, forse pioggia no, però è quello della famosa festa di Ronaldo, sì, sì, certo. col cantante colombiano, sì. Insomma, sono quelle partite che restano un po' nell'immaginario popolare. O la cancella in fretta con qualcosa di buono, oppure non lo so. Sì. Qualcuno mi scrive un WhatsApp: sveglia, Ancelotti si è dimesso. Non so chi sia né quale sia la fonte. Ah, sì? Io in questo momento non sono così. Andiamo così sulla timeline. Let's go on the timeline. Smanetta su internet, Pierluigi. Sveglia. Lo scrive ESPN. Mi dicono. Mi dice Luca, lo scrive ESPN. Vediamo. Visto che parlate di Germania. E a me mi ha colpito abbastanza il fatto che l'altro giorno il Borussia Dortmund, che sta dominando la Bundesliga 19-1 col Madrid, ha preso una legnata debole. Sì. Questo mi sembra interessante anche per il, se vogliamo, non generalizziamo con discorso sul livello della Bundesliga, però è chiaro che l'Europa è un'altra storia. Il Bayern in Bundesliga va molto bene sempre, quest'anno addirittura fatica un po' in Bundesliga, figuriamoci in Europa. Perché quella cosa del Borussia Dortmund mi ha colpito, insomma, una squadra meravigliosa, in attacco favoloso. Certo, primo in classifica della Bundesliga, però quando sente la musichetta della Champions, Cristiano Ronaldo non ci vede più. È così, il Madrid è a 7 punti dal Barça, è andato a Dortmund dove non aveva mai vinto e ha fatto una partita spettacolare, però anche approfittando dell'ingenuità clamorosa di questo Borussia Dortmund, che va bene. Cioè, neanche Zeman poteva essere così aperto al contropiede avversario e quindi questo mi fa un po' pensare su questa strana stagione di Bundesliga. Se Carlo fatica anche in Bundesliga, figuriamoci fuori. Le quattro squadre tedesche hanno perso tutte in questa doppia giornata di Champions. Infatti le abbiamo superate facilmente, con il braccio fuori al finestrino, in grande serenità. Comunque non ci sono conferme, lo dico, noi ci svegliamo, amico ascoltatore, però ESPN, al momento non ci sono certezze. Sappiamo che è in corso un vertice a Monaco di Baviera e sicuramente non si può escludere questa ipotesi, però al momento non è confermata. Senti, poi se il nostro ascoltatore ha notizie un pochino più precise, ce le dica. 800 24 00 24. Filippo invece, Conte che va a vincere in casa di Simeone, come lo vediamo? Meraviglia. Guarda, io ti dico, Diego Costa? Ieri sera, no, però, tu una meraviglia, perché io dico Conte ogni volta che lo vedo fa qualcosa, non so, ieri sera gliel'ha incartata, come si dice a Roma, al Ciolo, non ci ha capito niente. Questa mossa di mettere Kanté, che c'ha il numero 7 sulla maglia, quasi a giocare da numero 7, non molto largo a destra, Fabregas dall'altra parte, il raddoppio da una parte con Moses, dall'altra con Marcos Alonso, Bakayoko, più Hazard libero e Morata, l'Atletico è sparito. Poi voglio dire, è chiaro che c'è David Luiz, no? Riccioli d'oro, fa la sua minchiata, la sua sciocchezza. Piano. E quindi Piano è amico di Pardo. Sto scherzando, sto giocando. La memorabile intervista con David Luiz, brillo. Sto giocando. David Luiz lo sappiamo, lo conosciamo, no? Pregi e difetti. Esatto, lo conosciamo. Nel bene io concordo con Ricci, però discreto. È un grande trascinatore casinaro. No, ma io sono d'accordo. Io ti posso anche dire che in una mia squadra lo prenderei, perché comunque anche, però è chiaro, ogni tanto fa queste sciocchezze, no? Io lo prenderei. Ah, divertente. Io sono comparto, però voglio dire, poi è chiaro che gli ha messo in partita un Atletico che è stato miserabile ieri sera, veramente. E vedi anche lì come io sto guardando l'Atletico tutte le settimane e lo vedevo in crescita, mi sembrava una buona squadra. cioè, ieri sera veramente Simeone poi l'ha anche ammesso, è molto molto onesto in questo, in conferenza stampa non è che si è tirato indietro. Conte magari avrà i suoi problemi con Marina e con Abramovic, non sarà il migliore dei comunicatori a livello stampa, però veramente come allenatore giù il cappello. Ieri non sempre, noi che guardiamo tante partite, non sempre ti rimane in bocca o negli occhi qualcosa, una mossa che ha fatto l'allenatore ieri sera. Veramente Conte ha fatto una partita strepitosa. Ma sei d'accordo con Pardo anche sul fatto che non è una gran notizia per la Roma la vittoria del Chelsea sul campo dell'Atletico? Io su queste cose qua sono abbastanza pragmatico. La Roma dipende da se stessa. Se la Roma gioca bene, è inutile stare qui a calcolare. La Roma ieri ha vinto 2-1 col Karabakh e il Chelsea quanti gli hanno fatti? 5-6. Vabbè, in casa. 6, appunto. Cioè, la Roma non vinceva in trasferta da mille anni. Cioè, la Roma dipende da se stessa. Io non sarei. Io credo che col Chelsea sia giocabile. Ma sì, ma. Deve essere giocabile o non è giocabile. Sono due partite, secondo me la Roma può fare dei punti, però, ma non so quanti, però io ti dico, non è un problema di Chelsea, il problema è sempre la Roma, cioè sono le squadre italiane. Assolutamente. Se la squadra italiana se la Roma funziona, può giocare con chiunque, però è inutile stare lì a pensare se questo è un favore o no. Però secondo me ci sono due o tre squadre con le quali invece fai veramente fatica. E per me il Chelsea è una di queste, Pier. Per me il Chelsea è un avversario ovviamente molto difficile, complicata, in grande crescita. Allora, ma visto che siamo sul calcio inglese, che si è preso la sua revanche, come il Napoli può giocarsela col City? La sua revanche, la sua rivincita, e si sta prendendo la sua rivincita. Sì. Traffico, torniamo e chiudiamo il discorso sull'Inghilterra. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora ragazzi, chiudiamo con Filippo Maricci e Pardo questo discorso sulle inglesi, che invece ieri hanno fatto filotto, che negli ultimi due giorni hanno fatto filotto. City, United, Chelsea e Tottenham, tutte vittoriose in un botto. Bam! E attenzione a Mourinho. José Mourinho, che ieri è andato a vincere a zoppetta, come dite a voi a Roma, Pardo. Che? Ah, zoppetta. A zoppetta, non dite così. Beh, in trasferta sul difficile campo di zoppetta, andare a via. No, sì. A Mosca col Zesca. A zoppetta, diciamo, vuol dire facilmente. Roma. No, facilmente. Come a dite? Spasso, andare a vincere. A spasso, ok. Con la sigaretta in bocca. La sigaretta in bocca. Non l'ho mai sentito sto a zoppetta, però. No, vabbè, allora me lo sono inventato. Gente, ragazzo straordinario, ma adesso, insomma, i modi di dire romani. Cioè, a forse non spade, per esempio, che vuol dire a quattro di bastoni. Ma che la Nasca, cos'è la Nasca? Parlatemi delle britanniche, perché io. C'è la Nasca talmente grande che se dice di no a tavola sparecchia. Questa cosa, queste espressioni romane classiche, no? Sì, esatto. Il naso, la Nasca. Le britanniche vanno bene perché. È anche tempo che vadano bene, io le vedo vincenti, ne scegliamo una, finalmente, voglio dire, è troppo tempo che le squadre inglesi non... la cosa divertente secondo me quest'anno è che hanno tante facce diverse, no? Perché c'è Mourinho, c'è Guardiola, ma Liverpool già meno, no? Così, però il Pochettino, sono elementi diversi di un, diciamo, di un campionato che è sempre molto attrattivo, attraente, e Le vedo bene, insomma, e in questo momento addirittura più lo United del City, perché lo United anch'io, ha un gioco anch'io. È un gioco semplice. Mourinho ha tante qualità, tra una di queste è quella di far giocare in maniera semplice. Quello di Guardiola è più complicato, i giocatori si devono adattare, devono capire e ci mettono più tempo. Però in prospettiva vedo meglio il City. Io in prospettiva, se parliamo della stagione. Mi chiedi una favorita del campionato inglese, ti dico il City, poi magari mi sbaglio. Ma io in Europa vedo bene lo United invece. Sì, se riescono a seguire Guardiola, allora, perché lì si unisce, diciamo, l'utile al dilettevole, cioè no? la grande bellezza del gioco e anche ovviamente la capacità poi di sfasciare gli avversari. E se questo non succede, è chiaro che lo United ha un gioco molto più semplice, molto più basico, i giocatori apprendono prima e secondo me per questo sono partiti anche così bene. Già, sono partiti tutto l'anno scorso. Io le vedo bene. Poi attenzione al secondo anno di Mourinho, è sempre il suo migliore. Grazie, poi stasera, ragazzi, grazie, stasera Filippo. C'è Bate Arsenal, la grande sfida. Che finaccia, ragazzi. Vabbè. Ciao Filippo. Ciao, ragazzi, alla prossima. A proposito di Europa League, ovviamente giocano anche le nostre. varrebbe la pena anche sperare in un unplan clamoroso, no, no, al di 19 la Lazio sullo Zulder, assolutamente. Il Milan con Orieca e l'Atalanta, beh, sul campo del Lione lì è un po' più difficile. 21-05, sentiamo il trenino con le voci degli allenatori. Inzaghi, Montella, Gasperini. Una partita che avrà delle insidie, perché abbiamo visto la squadra che affronteremo, una squadra organizzata con dei giocatori dalla metà campo in su di qualità, e quindi ho già avvertito la squadra e i ragazzi che dovremo affrontarla nel migliore dei modi, con massima concentrazione. È una squadra molto molto pratica, una squadra molto fisica, magari anche a discapito della tecnica, quindi c'è bisogno di una partita di temperamento, perché troveremo una squadra molto compatta, un po' diversa rispetto a quella dell'ultima partita dell'Europa League. Giochiamo sul suo campo, in questo stadio giustamente molto bello, con una società prestigiosa, una squadra forte, però anche noi rappresentiamo il calcio italiano, lo vogliamo rappresentare bene, e quindi l'attenzione è esclusivamente sulla partita di domani. Questi tre allenatori in campo stasera in Europa League. L'Atalanta chiaramente è la più difficile delle tre partite. Il Milan, sì, secondo me le incognite per il Milan sono essenzialmente legate a se stessa. E tra l'altro il Rijeka era stato eliminato dall'Olympiakos nel turno preliminare di Champions League, quindi in qualche modo c'è anche una misura della forza del Rijeka, che non è moltissima. Il Milan, se fa una partita normale, vince. La Lazio, se fa una partita normale, vince. L'Atalanta, secondo me, se la gioca, insomma. Già ha piallato l'Everton. Il Lione non è quello, non è quello dei tempi belli, che questo è chiaro. Abbiamo 3 minuti per Federico Gaetano, poca roba. Federico, buongiorno. Gaetano mi ha detto. Salve, buongiorno. Salve a tutti. Volevo fare una domanda sulle formazioni del Milan. Io credo, volevo sentire il vostro parere, che Montella debba prendere una decisione. La decisione è che va bene giocare a 3, ma davanti, se vuoi usare Suso, devi giocare a 3. Perché Suso ha ampiamente dimostrato che come seconda punta non è in grado, sì. O ha bisogno di molto tempo. Però alla fine diventa 3-4-3 a quel punto. Esatto, cioè o tu giochi 3-4-3 con Kalinic, Bonaventura a sinistra e Suso a destra, o tu giochi 3-5-2 con Andre Silva e Kalinic. Cioè, queste sono, secondo me, da questo cerchio non se ne esce. Senza parlare di Zapata, che è come Bangioni, cioè lo usano per entertainment televisivo, quando toccano il pallone loro aumenta, diciamo, un attimo il thrilling, no? Sì, cioè, sì, capito. Capito il discorso. Sei cattivo, povero, povero Zapata. Siena si va giù duri, lo so, ovvio. Lo so. Gaetano, vediamo di sentire anche lui. Dica. Sì, buongiorno, buon pomeriggio, dica. Allora, io volevo approfittarne, uscivo un attimo dal seminato, fare una domanda a Bardo. Sì. Su c'è un piatto in particolare che predilige, no? Movenze Italia, Spagna. C'è una qualche preferenza culinaria, un piatto in particolare? Ma tu sei pronto per mangiare come parli? Beh, ma il mio piatto del cuore, lo sapete qual è? La cacio e pepe. Non è che c'è molto raggio. Poi mangio mille altre cose. Poi declina in varie maniere. Sono a stomaco vuoto anche oggi. C'è anche un mio post su Facebook. Volevo veramente, dico, adesso mi faccio del prosciutto in frigo, non c'era niente, c'era solo acqua e vino. E quindi sto dimagrendo in una maniera ormai imbarazzante. No, comunque sì, Spagna, straordinario chuleton, grande carne, grande prosciutto, grandi tapas. Allora, questo è tutti convocati, amica. Io rispondo alla domanda che mi fanno. Di politica internazionale, io comincio a dire: beh, sì, il rapporto fra Trump e Repubblica, capito? Parla come mangi invece dopo domani. Mangia come parli. Sabato mattina alle ore 9 e alle ore 20 in replica. La domenica puntata sul baccalà. Avremo Luca Bizzarri, avremo Beppe Fiorello, adesso però è meglio smettere di parlare e andare a mangiare, magari. Io mangerei, sì, una cosetta. Va bene, allora chiudiamo. Va bene, ragazzi. Salutiamo. Ci sentiamo domani. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Veronato in regia. Ci sentiamo domani alle 14. Ciao. Ciao. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.